dejarla tu amor. Tú me has cachado, mataste tu amor. Aunque se enfrando del mío dolor, esperando. Per poter scordar le tue carezze nella mar, quel bellissimo incanto che svanì non torna più. Son perso nel passato. Poter sognar sempre il tuo dal tuo cuore. Tu m'hai scacciato, ma t'aspetto ancora, anche se infranto dal mio dolore, però ancora. In vano mi sforzo per poter scordare le tue carezze nella mar, quel bellissimo incanto che svanì non so. Son perso nel passato d'un amor puro, qual cupo mistico ben dell'imbruni. L'affanno trovo tal nei sogni, quel paradiso che sparì non farmi più penar, se tu puoi tornare, non farmi più penar, se tu puoi tornare, non farmi più penar.